con Giulia Lamarca, regista del documentario Enzo Sono Lina, che sarà in programmazione al MICA Milano il 4, 9, 12 aprile. 2019. Giulia, ben trovata. Bentrovata, grazie. Ci racconti di Ciao. questo lavoro? Sì, allora, è un lavoro che inizia circa 4 anni fa e inizia da un archivio, diciamo. È un archivio di segreterie telefoniche, di nastri di segreterie telefoniche. Abbiamo cominciato insieme al gruppo con cui lavoro a fare una raccolta estesa su tutta Italia di vecchi nastri di segreterie. L'idea è nata un po' così, insomma, non so neanche spiegare come, comunque è nata, e dopodiché però è stata portata avanti con convinzione perché ci siamo resi conto che stavamo scovando, diciamo, un piccolo patrimonio della nostra Italia di quegli anni. Diciamo che questo archivio che abbiamo chiamato Enzo Sonolina, appunto, che prende il nome dal primo messaggio in assoluto che abbiamo ricevuto, è confinato in un'area di tempo che sono più o meno gli anni 90, ecco, 80-90 in tutta Italia. E quindi riguarda un'epoca che sembra molto vicina, ma in realtà è anche lontanissima dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e del modo di comunicare che abbiamo ora, insomma, rispetto all'epoca. Dopodiché, con questo materiale abbiamo deciso circa un anno fa di provare a partecipare a un bando di SIAE, che si chiama Si Illumina, e l'abbiamo vinto e ci hanno finanziato questo film sonoro che andrà in sala appunto il 4, questo giovedì al MICA Milano. E si tratta di un film fatto interamente con materiale d'archivio e sonoro perché di fatto l'immagine è ridotta ai minimi termini. Non so neanche se svelarlo, comunque è un'immagine non immagine, insomma, che rimane per tutto il tempo del film, una sorta di schermo grigio. Su che mole di materiale avete lavorato? Alla fine abbiamo raccolto, diciamo, una cinquantina di ore tra messaggi, rumori, conversazioni, insomma, poi è materiale così ritrovato, quindi c'è dentro un po' di tutto, però diciamo circa un 50 ore. Da quanti archivi proviene questo materiale? L'archivio l'abbiamo fondato Ah, noi, l'avete diciamo, noi realizzato abbiamo. voi, ok. Sì. E che tipo di ricerca avete fatto in tal senso? Dove avete scovato tutte queste registrazioni? Allora, in realtà un po' di qua e di là, molto Ok. spesso mercatini, oppure visto che comunque l'intenzione era appunto fare un lavoro sull'Italia, quindi per la maggior parte le abbiamo acquistate su internet, ce le siamo fatte spedire, così. Abbiamo cercato di, insomma, puntellare un po' tutte le regioni, quando possibile, tutte le regioni italiane, e questa è stata la ricerca. E dopodiché invece, diciamo, esiste all'interno di tutto questo materiale che è variegatissimo, perché appunto così, ha molti dialetti, persone di età diverse, eccetera, esiste però un fondo che ci è stato donato da una sola persona che ha tenuto via 10 anni della sua vita praticamente registrati attraverso i messaggi delle segreterie telefoniche, quindi degli amici che lo chiamano, eccetera. Lui si è conservato un arco di tempo che è più o meno 10 anni della sua vita. E quindi grazie a questo abbiamo ricostruito un intreccio, una storia, che poi inizia come una storia d'amore, insomma, poi dopo cambia, che fa un po' da filo conduttore, insomma, ci permette anche un po' di creare una narrazione all'interno di queste tante voci che popolano il film. Ci sono alcuni messaggi che ti hanno sorpreso in particolare, che ti hanno stupito? Sì, diciamo che inizialmente la cosa che mi stupiva di più era, cioè, che poi è stato quello che mi ha convinto un po' a fare il progetto, perché è del materiale molto intimo e anche molto quotidiano. In realtà è speciale proprio per questo, perché dà un'idea di un'intimità che è molto nostra, molto vicina, però ci sono dei messaggi che mi hanno colpito particolarmente proprio perché creano una vertigine temporale. che ad oggi mi colpisce molto, pensando che sono pochi anni fa. Per esempio, un ragazzo che dice: "Non ti trovo, questa cosa è urgente, provo a richiamarti stasera, compro una tessera, però insomma cerca di farti trovare in casa". Quindi l'impossibilità totale di trovarsi che ricorre molto spesso. Oppure una ragazza che deve andare a una festa, chiama l'amica e dice: "Io sapevo che c'era questa festa, però ho perso il volantino con tutte le informazioni, era a casa, non lo trovo più e quindi non so più come andarci". Cioè, mi è sembrata una cosa un po' assurda, no? Quindi, che poi alla fine se ci pensiamo sono solo pochi anni fa. Senti, come mai la decisione di un film sonoro e non un audio documentario? Ma allora, principalmente perché, appunto, come accennavo, questo film è stato realizzato da un collettivo che fa produzione cinematografica, cioè noi ci occupiamo di cinema, cinema del reale, quindi molto spesso, diciamo, è una forma di documentario, però che ha della finzione al suo interno, quindi si chiama cinema del reale. E quindi la nostra primo pensiero è stato: perché no? Cioè, la nostra via naturale, diciamo, è quello di portare poi i progetti al cinema. Ci siamo interrogati sulla possibilità di farlo e poi di fatto non abbiamo visto controindicazioni. Poi in realtà quello che ci ha permesso di farlo è stata la vincita di questo bando, perché evidentemente SIAE è stata coraggiosa e ha finanziato questo progetto che poteva sembrare un po' pazzo, però è stato così. Quindi ci ha permesso di portarlo in sala effettivamente. Cioè, si presenta come un film a tutti gli effetti. E poi la sala dà l'occasione, che è molto rara, di potersi dare del tempo, diciamo, per concentrarsi e di potersi mettere in un luogo senza distrazioni, e questo è molto prezioso comunque per noi e il progetto lo richiedeva. Quindi è un'esperienza diversa, è così, ci sembrava preziosa. Ci parli anche un po' dell'esperienza di questo collettivo? Noi produciamo sia lavori totalmente realizzati da noi, oppure ogni tanto cerchiamo di appoggiare artisti emergenti, soprattutto da un punto di vista di produzione esecutiva. Quindi normalmente a un artista in cui crediamo lo aiutiamo a finalizzare il film in modo che possa andare in sala di solito, oppure lo aiutiamo a realizzare la fotografia o il suono, la post-produzione. Ci lasci allora tutti i riferimenti web, sia per il vostro collettivo che per il documentario? Il collettivo si chiama Enece, Enece Film. Il documentario che facciamo in questo caso si chiama Enzo Soroina. Potete trovarci sulla pagina Facebook o anche sul sito e trovate tutte le informazioni. Bene, e allora ricordiamo anche gli appuntamenti a Milano, al MIC, il 4, 9, 12 aprile. Il giorno successivo alla proiezione del film sarà inaugurata anche una mostra al Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello, realizzata da Tommaso Perfetti con la mia collaborazione e curata da Matteo Balduzzi. Nella mostra saranno esposte fotografie dell'Archivio dello Spazio, che è un archivio storico del Museo di Fotografia, e ci sarà un'installazione sonora con i messaggi presi dall'Archivio di Segreterie Telefoniche. Un saluto e un ringraziamento alla regista Grazie. Giulia Lamarca. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, alla prossima.